Roma, settembre 1076. Matilde camminava su e giù per la camera da letto dell'isola Tiberina, la torre fortificata che era il suo rifugio a Roma. Si avvicinò alla finestra per scrutare il sole che sorgeva sul Tevere, un'arteria che scorreva nella città e nei territori circostanti. Gregorio dormiva nel letto accanto a lei, o almeno così credeva, finché non la fece trasalire con un'osservazione. Sei così irrequieta, Matilde mia. Matilde dormiva poco e in modo discontinuo, cosa che Gregorio aveva avuto modo di scoprire passando con lei qualche rara, preziosa notte. Una volta sveglia era sempre in movimento, era la sua stessa natura a impedirle di riposare ed era così sin da quando era una ragazzina. Aveva troppe cose da fare, troppe cose a cui pensare, infinite responsabilità nei confronti del suo popolo e della sua terra. Matilde si voltò e gli sorrise con un'espressione incredibilmente tenera e triste. La provvidenza mi ha fatto tanti doni nella vita, la pace non è uno di questi. Lui annuì con fare comprensivo. Che cosa ti preoccupa tanto stamattina? Goffredo di Buglione, il nipote del Gobbo. Mi è giunta voce che voglia approfittare dell'uccisione dello zio per rivendicare i suoi diritti come erede delle mie terre. Non c'è fine a quello che questi uomini pensano di potermi portare via. Perché non me ne hai parlato prima? Perché non ti vedevo da mesi e ho deciso di non sciupare la nostra prima notte insieme parlando di strategie quando avevamo faccende più importanti da sbrigare. Gregorio si appoggiò su un gomito e la studiò dal letto. Avevano trascorso una notte magnifica insieme e non era intenzionato a farla già terminare. Non sarebbe dovuto rientrare in Laterano prima di sera. Non devi preoccupartene un minuto di più, amore mio. Enrico è in trappole, lo sa. I suoi duchi, i suoi vescovi chiedono che si riconcili con me. Goffredo di Buglione non oserà fare una simile rivendicazione senza l'appoggio del re e dei suoi vescovi, cosa che non avrà. Manderò a dire oggi stesso al vescovo di Verdun che deve prendere il controllo dei tuoi affari e difendere la tua eredità in Lorena. Consideralo già fatto. Enrico era in una condizione politica gravemente indebolita in seguito a un incontro svoltosi a Tribur, dove i nobili tedeschi si erano riuniti per ribadire il loro appoggio alla sentenza di deposizione contro di lui e per prendere una decisione in merito a un successore. Gli uomini riuniti non erano riusciti a trovare un accordo sulla designazione del nuovo re, ed Enrico aveva regnato un altro giorno. Tuttavia, l'assemblea di Tribur aveva insistito perché il re in carica si rapacificasse subito con il Papa e gli promettesse obbedienza assoluta. Era stato stabilito proprio dai duchi e dai vescovi di Enrico che il re avrebbe perso il trono se non avesse fatto ammenda davanti al Papa entro il 22 febbraio, l'anniversario della sua sentenza di scomunica. Gregorio aveva ragione, la sua contessa non aveva nulla da temere per il momento. Il glorioso sole romano entrò dalla finestra illuminando i capelli sciolti di Matilde. Gregorio pensò, come faceva spesso, che fosse una visione assolutamente da mozzare il fiato. Sollevò la coperta e la invitò a tornare a letto. Vieni, colomba mia, tenterò di darti la pace a cui anneli. Matilde lo raggiunse a letto e si lasciò avvolgere dal calore del suo amore per il resto della mattinata e per quasi tutto il pomeriggio. Quando giunse l'ora di lasciare Roma, Matilde era meno addolorata del solito. Gregorio le aveva fatto una promessa che la entusiasmava parecchio e le dava qualcosa di bello da aspettare con ansia. Aveva consentito a trascorrere il Natale con lei, nella sua adorata Lucca. Lucca, vigilia di Natale 1076. L'antica cappella sotterranea, che da un millennio fungeva da centro sacro dell'ordine, era illuminata da diverse dozzine di candele e di cera d'api. Rami di pino e fiori invernali ornavano le pareti, appesi ai candelabri e legati con dei nastri. Anselmo, ormai stimato vescovo di Lucca, era presente alla cerimonia. Stringeva la mano di Isabella mentre prendeva posto accanto all'altare. Gregorio e Matilde erano in piedi nello spazio centrale, l'uno di fronte all'altra, mano nella mano, mentre il maestro era dietro l'altare, con il libro rosso aperto a una pagina tratta dal libro dell'amore. Lo leggeva, anche se non ne aveva bisogno, perché conosceva quelle parole a memoria da tantissimi anni. Gregorio aveva passato la settimana a studiare con il maestro. A volte erano solo loro due, altre volte Matilde si univa a loro per prepararsi a quello che doveva accadere quel giorno. Gregorio aveva divorato gli insegnamenti del libro rosso, avido di conoscere tutto sullo straordinario libro e sulla sua storia. Per Aveva studiato per imparare e capire il passo specifico che gli era stato assegnato come preparazione per quel giorno. Ripeté la poesia di Massimino con convinzione e ardore mentre guardava negli occhi la sua amata. Ti ho amato prima, ti amo oggi e ti amerò ancora. E il tempo ritorna. Matilde aveva il viso rigato dalle lacrime mentre ripeteva le stesse parole a Gregorio con la voce strozzata dall'emozione. Quella poesia era così speciale e sacra per lei. La recitava sin da quando aveva imparato a parlare, con Isabella, con i suoi amici dell'ordine e anche con Bonifacio, perché si riferiva all'amore in tutte le sue forme, paterno, materno, filiale, fraterno e romantico. Ma quando la poesia veniva recitata direttamente a un amato o a un'amata, acquistava un significato eccezionale, in questo caso travolgente. Quando i voti furono pronunciati, il maestro venne avanti con in mano un cordone di seta intrecciata, chiamato cordelier, che terminava da entrambe le estremità con due eleganti nappe. Legò con delicatezza la morbida corda intorno ai polsi degli amati, formando un nodo per simboleggiare l'unione di quella coppia, come era stata predestinata da Dio all'alba dei secoli. Quando il maestro passò le mani su quelle della coppia, per darle la benedizione, Isabella cominciò a cantare la canzone francese sull'amore che Matilde adorava con la sua voce dolce e melodiosa. Ti amo da lungo tempo, mai ti dimenticherò. Dopo che Isabella ebbe cantato gli ultimi versi, il maestro sciolse il cordone per liberare la coppia. Invitò quindi i due a scambiarsi i tradizionali doni di nozze, i piccoli specchi dorati, mentre recitavano uno dei loro insegnamenti sacri. Nel tuo riflesso troverai ciò che cerchi. Quando voi due diventerete uno solo, troverai Dio riflesso negli occhi del tuo amato, e il tuo amato lo troverà riflesso nei tuoi. Il maestro concluse la cerimonia con le belle parole del libro dell'amore, quelle che sono incluse anche nel Vangelo di Matteo, perché non siete più due, ma una sola carne e un solo spirito, e ciò che il divino ha unito l'uomo non separi. Si rivolse a Gregorio. Ora lo sposo può dare alla sposa il nashak, il bacio sacro che fonde gli spiriti. Gregorio si avvicinò alla sua amata, circondando Matilde con le braccia e stringendola forte a sé. Aveva le lacrime agli occhi adesso. Nello spazio sacro e nascosto di quell'antica camera in cui le parole divine erano state protette e venerate sin da quando erano sbarcate sulle coste italiche, il Papa era appena stato unito in un matrimonio sacro e segreto alla donna che amava. La donna più potente d'Europa, forse addirittura del mondo, era ormai la sposa del pontefice. Un segreto che non sarebbe stato conosciuto mai da nessuno, al di là di quelli che erano presenti nella stanza. Anselmo, Isabella, il maestro, la coppia stessa e il bimbo non ancora nato che Matilde portava in grembo, che era stato concepito nella fiducia e nella consapevolezza quando i genitori erano stati insieme a Roma 3 mesi prima. Matilde lo avrebbe ricordato come il periodo più bello della sua vita. Durante quelle 2 settimane a Lucca, lei e Gregorio vissero come marito e moglie nell'intimità dell'edificio dell'ordine e dei suoi dintorni. Era la prima volta che stavano insieme senza che l'ombra della finzione e del decoro aleggiasse su di loro. Lì erano del tutto protetti dal mondo esterno e poterono celebrare la gioia per la nascita di Gesù insieme ai loro fratelli e sorelle nella via. Lì poterono fingere, anche se solo per qualche idilliaca settimana, di essere una normale coppia di sposi che vivevano in un mondo di libertà. Gregorio continuò a studiare, affascinato dagli insegnamenti che, stando all'ordine, venivano direttamente da Gesù. Come uomo dello spirito, riusciva ad abbracciarli completamente. Come allievo, li trovava provocatori, ma anche sorprendentemente logici ed accettabili. C'era ben poco da considerare eretico in essi, quando li si confrontava con i Vangeli canonici. In realtà, l'eresia di questi insegnamenti originari non aveva a che vedere con le scritture, ma con le tradizioni create dall'uomo nei precedenti 1000 anni, comprese quelle avvalorate di recente dalle sue stesse azioni. Come Papa si trovava di fronte al dato di fatto che gran parte di ciò che la Chiesa affermava al momento era contrario agli insegnamenti del cristianesimo delle origini. Gregorio era spaventato da ciò che questo significava per il suo patrimonio spirituale, Soprattutto era abbastanza perplesso riguardo a come quegli insegnamenti d'amore sarebbero potuti perdurare in un sistema per cui il mondo poteva essere governato con il denaro e con la politica solamente. Non era sicuro che una cosa del genere fosse probabile. Tuttavia il tempo trascorso con Matilde aveva rinnovato il suo spirito, lo aveva portato a credere nell'amore. Poteva forse smantellare la struttura attuale della Chiesa? Spazzare via anni di politiche e tradizioni e creare un nuovo modello in cui l'amore regnasse sovrano. Un'idea simile sembrava tanto bella quanto irrealizzabile. Matilde non si lasciava scoraggiare. Comunque, lavorava con lui tutti i giorni. Solvitur ambulando, gli diceva, e gli insegnò la potente tradizione di accettare il volere divino incontrando il divino al centro del labirinto. Gli lesse la leggenda del Minotauro, tratta dal libro rosso, e insieme discussero a lungo delle allegorie di quella storia che poteva essere applicata anche alla loro. Dopo una delle loro sessioni di studio, in cui si era sentito particolarmente ispirato, Gregorio aveva chiesto a Matilde di portarlo al cospetto del Volto Santo. Anselmo chiuse la cattedrale di San Martino perché potessero averla tutta per loro e nessuno li disturbasse. Inginocchiatosi davanti all'immagine scolpita da Nicodemo, Gregorio giurò di preservare la Chiesa al meglio delle sue capacità affinché fosse in armonia con i veri insegnamenti della via. Sapeva che sarebbe stata un'impresa ardua, ma era deciso a intraprenderla per il suo amore e per il suo Signore. Capì che era stato messo in quella posizione di incomparabile autorità per quel motivo e avrebbe trovato il modo di realizzarla. Sarebbe stato un periodo difficile e avrebbe dovuto affrontare nemici dappertutto, ma la sua diletta rinnovò la promessa di rimanergli accanto a ogni passo, per ispirarlo, per combattere al suo fianco e per amarlo sempre. Matilde aveva fatto il suo primissimo giuramento in quel luogo, all'età di 6 anni, lo aveva rispettato in modo spettacolare, così come avrebbe rispettato qualunque altra promessa avesse fatto. All'alba del giorno di Santo Stefano, Matilde e Gregorio furono scortati da Anselmo, Isabella e dal maestro fino al portico del Duomo di San Martino. Lì i novelli sposi ricevettero un dono inaspettato dai membri dell'ordine. Sul pilastro occidentale della facciata era stato dipinto con un intenso color cremisi un perfetto labirinto a 11 cerchi. Accanto al simbolo sacro, un'iscrizione recitava: "Ecco il labirinto costruito da Dedalo di Creta, dal quale nessuno che vi entrò poté uscire, eccetto Teseo, aiutato dal filo di Arianna." Nel cerchio al centro del labirinto c'erano le parole conclusive di quella leggenda, e tutto per amore. Anselmo spiegò che aveva progettato il disegno e il motto con l'aiuto di Isabella e del maestro per commemorare il giuramento che Gregorio aveva fatto nei confronti di Matilde e dell'ordine, alla presenza del divino e degli altri durante quella felice vacanza. Era un monumento per ricordare con gioia a Gregorio di rispettare le promesse che un tempo aveva fatto in paradiso a se stesso, agli altri e a Dio. L'allegoria di Teseo e Arianna era stata usata per nascondere la verità in un luogo in cui solo chi aveva occhi per vedere e orecchie per intendere l'avrebbe riconosciuta, perché lì Gregorio era Teseo, l'eroe che sarebbe fuggito dal buio labirinto della corruzione e della politica della Chiesa, costruito per intrappolare gli innocenti in un intrico di menzogne e dogmi punitivi. Con l'aiuto del miracoloso filo della verità, fornitogli da Matilde e Arianna, il rinato Teseo avrebbe trovato la luce e salvato la sua gente, dimostrando ancora una volta che il tempo ritorna. Un secolo dopo, nel 1200, uno scalpellino di Lucca avrebbe scolpito il disegno ormai sbiadito sulla facciata di San Martino, creando un monumento permanente alle nozze segrete di Gregorio e Matilde, che sarebbe rimasto lì per l'eternità. E tutto per amore. Il periodo di grazia di Gregorio e Matilde fu bruscamente interrotto dall'arrivo a Lucca di un messaggero. Enrico IV stava valicando le Alpi diretto in Toscana. Era pronto a riparare il torto fatto al Santo Padre e a giurare fedeltà e obbedienza al trono di San Pietro. Fu stabilito che la roccaforte di Matilde a Canossa, data la sua posizione inespugnabile e protetta, sarebbe stata il luogo più sicuro in cui Gregorio poteva ricevere Enrico. Passarono per Firenze, dove una formidabile scorta toscana andò loro incontro per preciso volere di Conn. I toscani erano decisi a proteggere tanto il loro papa quanto la loro contessa e non avrebbero corso il rischio di un'imboscata. Data la sua posizione di debolezza, era piuttosto improbabile che Enrico tentasse di ordire qualche brutto tiro, ma quando si trattava del capriccioso cugino di Matilde, il peggio non si poteva mai escludere. Canossa, gennaio 1077. Se Enrico IV, arrivando nei territori di Matilde, si aspettava di essere trattato come un re e di essere ammesso all'istante alla presenza del pontefice, sarebbe rimasto profondamente deluso. Gregorio VII era deciso a prolungare lo sfoggio di potere e a ribadire la propria posizione di autorità assoluta. Si rifiutò in modo categorico di dare udienza a Enrico, senza indicare se e quando avrebbe cambiato idea. Il re era arrivato con un seguito di nobili e vescovi che speravano di riconquistare il favore del pontefice, implorando perdono dopo i peccati commessi durante il sinodo di Worms. Gregorio sapeva benissimo quanti e quali uomini si erano messi contro di lui e la sua Matilde, e si era pronunciato in modo molto severo contro tutti loro. Non era propenso a essere generoso con nessuno. Enrico era arrivato con un formidabile alleato che non accettava di essere ignorato. Ugo, l'abate di Cluny, era capo del seguito tedesco, poiché era stato nominato padrino di Enrico quando il re era ancora in fasce. Gregorio rimase impassibile davanti a quella ostentazione di forza. Era il Papa, dopo tutto, e nonostante Ugo fosse a capo dell'influente istituzione monastica di Cluny, era soltanto un abate. Fu Matilde a porre fine alla situazione di stallo e a offrirsi di fare da mediatrice fra suo cugino, l'abate Ugo e il Papa. Furono presi accordi perché un primo incontro avesse luogo nella sua fortezza di Bianello, vicino a Canossa. La contessa toscana era una donna abile, audace ed esperta. Conosceva il cugino abbastanza bene da sapere che non ci si poteva fidare di lui. Tuttavia, quando il re si rivolse a lei alla stregua di un supplicante, implorandola di intercedere con Gregorio per conto del suo più amorevole e generoso cugino, Matilde si intenerì. Malgrado il suo genio e la sua esperienza militare, Matilde era una discepola della via dell'amore e credeva nel potere di quegli insegnamenti, fra cui c'era il perdono. Fu questa convinzione a portarla al suo primo litigio con Gregorio. Non posso credere che ti sia fatta abbindolare dalla sua falsa supplica. Gregorio fissava le montagne innevate fuori dalla finestra della loro camera da letto a Canossa. Stava cercando di tenere a bada la rabbia, ma stentava a credere che una donna tanto brillante potesse aver creduto a tutte quelle fandonie. Matilde, che camminava su e giù per la stanza, era altrettanto agitata. Non sono un idiota, Gregorio. Nessuno meglio di me sa chi è Enrico e di che cosa è capace. Allora forse la tua condizione ti ha indebolita nelle facoltà mentali, replicò seco. Forse è per questo che le donne non governano. Matilde si sentì raggelare il corpo. Era incinta di 3 mesi. Ma la sua condizione era ancora un segreto che nascondeva con facilità sotto le gonne voluminose allora in voga. Ma Gregorio ne era a conoscenza da sempre e la cosa era una costante fonte di preoccupazione per lui. In qualità di pontefice aveva sulle spalle enormi responsabilità, sia come guida sia come uomo. La tensione cominciava a farsi sentire, era chiaro. Quando vide impallidire Matilde, Gregorio si pentì subito del suo sfogo, si avvicinò e le afferrò le mani. Scusa, Tilde, scusa, non è giusto e non è neanche vero. Matilde non si scostò, ma non lo abbracciò nemmeno. Aveva gli occhi pieni di lacrime, ma si rifiutava di versarle. Invece espose il suo punto di vista con una calma che in quel momento non provava. Forse, se le donne governassero, ci sarebbero meno guerre, meno morti, meno distruzione. Non lo hai dedotto dai nostri insegnamenti mentre eri a Lucca? Che è stata la perdita del principio femminile nelle attività di comando e nella spiritualità a causare tanta devastazione intorno a noi? L'equilibrio è andato distrutto con la caduta dell'uomo, quando le donne sono state diseredate e private del loro potere, quando tutto quello che c'è di puro e potente nella saggezza femminile è stato impacchettato e bandito in modo che l'umanità potesse essere ridotta in schiavitù dal bisogno di potere e dalla mancanza di qualcosa che fosse capace di mitigarlo. Persino gli uomini come te, per quanto grande tu sia nel cuore e nello spirito, molto spesso non riescono a dominare la loro natura. E la natura maschile desidera fare la guerra, per ottenere potere e guadagni quando viene contrastata o minacciata. Le donne, al contrario, hanno una natura diversa. Siamo portate a collaborare, a mediare, a cercare la pace anziché la morte. Eh sì, poiché sono qui davanti a te con nostro figlio in grembo, voglio che lui o lei nasca in un mondo in cui ci siano pace e prosperità. E se questo mi rende debole, pazienza. La volontà divina ha decretato che mi trovassi in tale condizione, in questo momento e in questo luogo, e mi fa desiderare di porre fine a questa inutile sofferenza. Gregorio era troppo agitato per prestare attenzione a quella che suonava come una reprimenda. Sto cercando di proteggere te e nostro figlio, e forse tutta l'Italia, da Enrico. E dopo tutto quello che ti ha fatto nel corso della tua vita, non riesco proprio a credere che lo perdonerai con tanta sollecitudine. Ogni residuo di calma aveva ormai abbandonato Matilde. Mi rifiuto di essere ipocrita, Gregorio. Gesù ci insegna a perdonare, e questo è il cammino della via che mi è stato insegnato e che seguo, perché se un uomo professa il pentimento e implora perdono, chi sono io per giudicare se sia sincero o meno? Questo spetta soltanto alla provvidenza divina. Io sono il Papa, replicò lui brusco. È mio dovere agire come intermediario di Dio sulla terra. E come tale ho stabilito che le scuse di Enrico sono false e inaccettabili. Digli di ritornare in Germania e lasciare che il suo popolo si occupi di lui come meglio crede. So che Rodolfo di Svevia è pronto a succedergli al trono se mi rifiuto di perdonarlo, ed è quel che farò. Matilde era molto combattuta. Il lato impetuoso della sua natura la solleticava a uscire dalla stanza come una furia e ad abbandonare Gregorio e la sua arroganza. Ma lo amava sopra ogni cosa. E sapeva che aiutarlo a superare quelle sfide spirituali era parte della sua missione, essendo lei la sua compagna. E non aveva appena evidenziato quanto le donne che governavano fossero più inclini alla diplomazia e alla mediazione in tempo di guerra. Tirò un sospiro e si rivolse a lui in modo piuttosto energico. Che cosa dovrei fare, amore mio? Devo dare una risposta all'abate Ugo e non gli dirò certo di rispedire Enrico in Germania. Che cosa vuoi che faccia per dimostrare che è pentito? Gregorio ci pensò per un istante. Il suo primo istinto era quello di ribattere stizzito che non c'era niente che Enrico potesse fare e che quella era la sua decisione finale. Ma si addolcì un poco quando la guardò. Aveva cerchi neri intorno agli occhi che contrastavano in maniera evidente con la sua pelle di alabastro. Sembrava terribilmente fragile. Anche lei cominciava a sentire il peso di tutta quella situazione. Dì all'abate Ugo che voglio vedere Enrico fare pubblica dimostrazione del suo pentimento, affinché tutti i cittadini di Canossa possano assistervi. Voglio che indossi il cilicio e si inginocchi in mezzo alla neve davanti alle porte della città, abbandonando ogni segno di regalità e implorando come il più umile dei pellegrini di essere ammesso alla mia presenza. Chiedi che arrivi alle porte di Canossa in questo modo domani e io considererò l'ipotesi di ascoltare la sua supplica. Matilde accettò. Quella concessione da parte sua non era certo l'ideale, ma almeno non si era rifiutato del tutto. Lasciò Gregorio nelle loro stanze e andò a cercare il suo messaggero per comunicargli le condizioni poste dal pontefice. Non tornò da lui quella notte. Preferì dormire insieme a Isabella.